custode, grazie rende alle stelle, e lieto mire campo verde, e salvo il grigio amato. Così, del tuo spietato genio,